and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Hola. Ormai è ufficiale, è tutta colpa dei quarantenni. Cosa? È tutto, la colpa di tutto dei quarantenni, la crisi, il mondo argentino, le guerre, tutto. Okay, quarantenni. Io e te siamo quarantenni, la crisi la subiamo, altro che... Lo so, però il bambino Sallusti è convinto che sia tutta colpa nostra e lo dice al bambino blogger Mario Adinolfi, che appunto ha 40 anni, senti qua. I quarantenni sono i responsabili del crack finanziario che ha sconvolto il mondo. Sono quelli che sono andati in giro per il mondo a vendere spazzatura finanziaria e hanno creato quel casino che hanno creato. Forse a nome però di banchieri settantenni. Ecco, bravo, lasciamo perdere. Assolutamente. Forse si chiama Calisto Danzi, Gragnotti, il vostro amico Geronzi, altri nomi facciamo. Sallusti, mi faccia capire chi sono gli altri responsabili. No, io vorrei però far capire che se invitate la gente in studio, poi la fate parlare due minuti e c'è un cretino in studio che impedisce di parlare. Sei intelligente, Adinolfi. È lo sguardo più intelligente del solito stamattina. Allora, smettiamo con gli insulti reciproci. Però possiamo parlare, ma senza che mi dà del cretino, perché questo sicuramente non è accettabile. Allora, va bene dare epiteti, però è anche giusto far parlare. Però io cretino non me lo prendo, sto se si riprende il cretino, magari così possiamo poi... No, il cretino glielo lascio parlare. Lo sguardo lucido. Hai sentito, dallo scontro generazionale si arriva poi quasi subito a quello fisico. Beh, però Adinolfi il fisico ce l'ha. Vabbè, sì, se prende Sallusti lo schiaccia con una mano. Così. Quindi, cari bambini, anche nel 2011 i Fight Club continuano. Siamo tutti in attesa di vedere che cosa serverà il futuro per il bambino Sallusti, sì, ora che è stato abbandonato dal bambino Feltri. Riuscirà a mantenere la verve che gli è abituale anche senza suggeritore occulto? Sembrerebbe di sì. Ma boccione Adinolfi dice, ma che cosa c'è a picchiare un finanziere tutta sta scena? Io vorrei che qualcuno picchiasse lui come hanno picchiato il finanziere e poi ci viene a raccontare. Ma questo va bene a dire cose del genere in televisione? E la seconda cosa che voglio dire a sera. Pure lei non mi vuol dire che capisco l'eroismo. Cretino e picchiato. Io capisco l'eroismo. Cretino e picchiato. Ma non esiste. Io capisco l'eroismo del finanziere. Se non mi fate neanche parlare non riesco a parlare di... Allora, siamo impazziti. Sallusti, aiutatemi però tutti quanti. Però aiutatemi. Se lei dice... Devi ritirare questo braccio. Se lei dice che... Adinolfi deve essere picchiato, ma in un clima abbiamo detto che dobbiamo Intanto il bambino Vespa va a firmare libri in libreria e si becca le contestazioni di un altro blogger corpulento, Piero Ricca. Ma non confondersi con Pietro Micca. Sei diventato ricco grazie al servilismo giornalistico, attraverso il servizio pubblico che avete privatizzato ormai da tanti anni. Allora riassumo i punti della mia critica, se i poliziotti mi lasciano in pace. Uno, sfruttamento del servizio pubblico a fini pubblicitari. Due, speculazione sulla tragedia e il dolore anche dell'Aquila. Tre, le bugie dell'Aquila. Gossip sulle tragedie, oscenità pornografica sulle tragedie. Beh, insomma, dai, Ricca dice in malo modo a Vespa tutto quello che gli dicono sempre velatamente i critici televisivi e perfino i colleghi, dai. Dai, non c'è tanta differenza di concetto tra quello che scrive Aldo Grasso all'indomani della diretta su Avetrana e quello che dice invece qui in maniera un po' più colorita Ricca. Pietro Micca. Pietro Micca, insomma. Io non capisco tutta sta rabbia contro il bambino Vespa. No, te lo dico. Cioè, cosa fa di male? I plastici? Ecco, ad esempio i plastici, ma no, ma bravo. Parliamo dei plastici. Cosa c'è di male a fare un plastico? Vabbè, scusa, è di cattivo gusto, no? Vabbè, allora cosa vuol e dire? Allora cosa, dai? Vabbè, come se gli altri conduttori di Fight Club, talk show, televisivi fossero campioni di buon gusto. Vabbè, però dai, almeno, dai, plastici, ho capito, non fanno i plastici della villa di Avetrana col pozzo, le macchinine, quelle cose lì. Tante volte c'è l'attore invece che fa finta di essere il banchiere corrotto piuttosto che il politico intercettato. Capito, invece del plastico c'è la fiction, e allora che differenza c'è? Vabbè, ho capito. Almeno il plastico interessa anche noi bambini. Ecco, io plastico. Lo sapevo che arrivavano bambine, bamboline. Drago, i bambini vedono un plastico enorme, tutto pieno di dettagli, si fermano a guardare porta a porta, capito? È un catch. Però si sorbiscono poi due ore di chiacchiere morbose su uno zio che ammazza la nipote e la violenta da morta. Ma Kappa, ti sembra una bella cosa? Vabbè, magari non era proprio morta. Yeah. La situazione politica italiana è ancora in pieno stallo, maggioranza debole, minoranza indecisa. A noi non resta che affidarci allo sciamano di Pietro, che con la sua danza tarantolata potrà aiutare il bambino Bersani a decidere se andare con Vendola, o con Casini, o con una escort. Si dia il via al gioco dell'asino di Buridano! Il gioco dell'asino di Buridano! Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per morire di fame. Vado con questo e vado con questo. No. Vado con Piano, questo, adesso vado con queste canzoncine non vorrei aver casini con la SIAE, K. Ma come la SIAE? Eh sì, la SIAE. Non vorrei che quelli della SIAE si mettano in testa di fare come quelli della GEMA. Ma cosa stai dicendo? La GEMA, la SIAE tedesca, K. In pratica, non sapendo più come reclamare i diritti d'autore in giro per la Germania, la GEMA si è accorta che l'attività degli asili tedeschi prevedeva regolarmente l'utilizzo di canzoncine. Ma che scoperta è? Cos'è? Una scoperta. Si canta l'asilo, quindi... Ho capito, però loro non avevano mai pensato di andare negli asili a chiedere i soldi dei diritti d'autore delle canzoncine. Ma sono impazziti, cos'è? Adesso all'asilo bisogna fare il borderò? Sì, forse sì, non lo so. Per ora GEMA e asili tedeschi sono in trattativa per chiudere un accordo forfettario tipo quello delle radio. La GEMA chiede 56 euro più IVA per i testi di 500 canzoni. C'è una lista di 500 canzoni dalla quale puoi prendere anche i testi, servono anche per imparare a scrivere. Alle meine Entchen, quelle robe lì le fanno scrivere, le fanno cantare, e quindi la SIAE e la GEMA vuole i soldi per quelle cose lì. Schwänzchen in die. Perfetto. E ti pagano i diritti. 56 euro. Ma è interessante. Scusa, il prossimo passo sarà chiudere un accordo con le chiese, perché anche in chiesa si canta. Certo. Si canta tantissimo. Sì. E poi cosa si potrebbe pensare a quelli che cantano sotto la doccia? Ma cosa dici? Vabbè, scusa, lo sanno tutti. Facendo la doccia si canta. E quindi se uno sotto la doccia canta, che ne so, una canzone di Gino Paoli. Dirne uno a caso. È giusto che Gino Paoli riceva i suoi diritti d'autore. Ma quindi come fanno? Scusa, mettono un microfono in ogni doccia? Magari anche una telecamera. E auscultano le docce degli italiani. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Ma come parolacciometro? Non ho detto niente? No. E questa qui sarà. Questa sarà la SIAE. E che vuole dire di per le cazzo di Gino Paoli? Ma Gino Paoli non c'ha abbastanza soldi? Prende anche la pensione da deputato? I bambini dell'asilo stanno facendo un casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo! Con questa tosse, K, questo raffreddore non ce la faccio più, sì, continuare. Poi stammi lontano. Cosa fai? Tieni i caloriferi troppo alti. Non credo, dai, forse semplicemente siamo in inverno e vengono questi inconvenienti. Devi sciogliere il muco. Tu sciogli il muco. Schifo, cosa? Non si dice muco per radio, dai. Okay, ma perché? Come dire catarro, non si dice. Catarro non si dice più, è vecchio. Adesso si dice muco. Come si dice muco? Prego, gli spot degli sciroppi contro la tosse adesso in televisione parlano semplicemente di muco. Davvero? Apertamente, così, davanti a tutti. Muco, è certo. Alla faccia di chi dice che in Italia non c'è libertà d'espressione. Vabbè. Come si può affermare una cosa del genere se possiamo finalmente dire in TV, all'ora di massimo ascolto, all'ora di pranzo, all'ora di cena, una parola come muco? Sì, però dai, ma capo, non confondiamo le acque. Perché una cosa è il muco e una cosa è la libertà d'espressione. Ricordiamoci della legge Bavaglio. Ma quale legge Bavaglio? Ormai non se ne parla più, tutti non sanno neanche cosa più. Non ti ricordi? La galera per i giornalisti, quelle cose lì, non si può pubblicare adesso niente. Adesso tutti che continuano a dire pubblicare quello che vogliono, compresa la parola muco. Ma vabbè, ma non è la stessa cosa. È un eccesso di libertà, secondo me. Dici? Ma sì, dai, muco non è bello, dai. Tra poco diranno direttamente merda. Ormai diarrea lo dicono tranquillamente negli spot degli antidiarroici, sei lì che mangi, ti dicono diarrea. Dicono anche perdite d'urina in ascensore. Che poi non capisco in ascensore, basterebbe perdite d'urina, no? Basterebbe quello. In ascensore è una situazione tipica, Drago, scusa, sarà capitato anche a te di andare in ascensore con uno che... No. Capita a te allora che sgoccioli un po'. Ma nemmeno... Ma dove vivi? Ma tu più che vivere è morto. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. mandate i vostri nanana nanana alternativi a chiedoasilo@radio24.it.